vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 12 aprile, per iniziare a tutti un augurio sentito di buona Pasqua. Oggi sole in regione sorto alle 6.26 e tramonterà alle 19.51. La luna è calante, siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino. Puntuale, due volte all'anno arriva la intenzione di semina per la prossima stagione agricola, intenzione che ha fatto registrare una leggera ripresa del mais e il calo delle terze colture. A seguire una tattica per confondere le malerbe nell'orto che passa sotto il nome di finta semina. Per la rubrica del vino, ancora ferma la storia, siamo arrivati al Medioevo italiano e all'affermarsi del vino nella società, mentre in quella delle piante avremo una scheda sull'equiseto dei campi, una delle piante più antiche che crescono ancora spontaneamente. Non tutti sanno che a Codroipo è attiva un'azienda blasonata, leader in Italia, che cura e distribuisce i budelli per confezionare salami. Per lo spazio della gastronomia, oggi una ricetta antica, caratteristica delle nostre terre mitteleuropee, la gelatina di Pasqua. Andamento dei mercati, previsioni del tempo, con una breve nota di climatologia locale, il proverbio friulano di vita nei campi, chiudono la puntata. Due volte all'anno con Andrea Fabro del Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia, Vita nei Campi fa il punto sulle intenzioni di semina, che sono un po' la cartina di tornasole dell'andamento dell'agricoltura nella nostra regione. Quest'anno, dopo anni di equilibrio, pare ci sia una ripresa del mais. Andrea, come mai? Un po' sull'onda anche di questa situazione internazionale che farebbe prevedere una mancanza o una necessità di cereali, la nostra agricoltura, che ha nel mais il suo cuore, potrebbe dare adito a un piccolo recupero della superficie regionale del mais, questo qui un po' a scapito della superficie a soia. Le variabili però sono legate a questo andamento della mancanza di pioggia. Cosa sta succedendo? Sì, è un po' strano da noi avere un inizio primavera così secca e anche siccitosa. Questo qui sta rallentando un po' la voglia e l'intenzione soprattutto di seminare mais, quindi io credo che adesso possiamo ragionevolmente ipotizzare di aver seminato una superficie intorno al 10-15% dell'ipotesi totale di superficie che andrà seminata a cereale. Certo, indubbiamente questo non facilita le semine, perché una semina su un terreno secco sicuramente farà partire la coltura in maniera non perfetta, un po' stentata, e questo potrebbe comprometterla un po'. Però mi auguro che nei prossimi giorni un cambiamento delle condizioni meteorologiche possano favorire in maniera determinata e fondamentale poi una piena partenza delle semine mais nella nostra regione. Mentre mais e soia se la vedono testa a testa, terza coltura, chi sta avanzando o chi sta regredendo? Diciamo che quelle sono le colture che noi abbiamo in Friuli. Come dicevi giustamente, dopo mais e soia la terza coltura indubbiamente sarà il girasole. Escludiamo i cereali autunno-vernili in questo momento. Però in alcune areali secondo me il girasole dovrebbe cedere un po' il passo. Ci potrebbe essere una piccola ripresa di superficie, come dicevo prima, della coltura del mais e forse da qualche altra parte anche della soia. Il girasole, ecco, lo vedo un momentino fermo al palo o comunque in leggero calo di superficie. Il colza come sta andando? Il colza soffre un po' di quello che è il problema del frumento, cioè la mancanza d'acqua in questo momento nella nostra regione sta in alcuni areali, non dico compromettendo, ma facendo evidenziare dei segnali di stress da parte della coltura. Se il cereale soffre, anche la colza incomincia a dare questi segnali, questi sintomi di mancanza d'acqua, insomma. Colture alternative che si stanno affacciando anche sui nostri campi? Sinceramente in questo momento non vedo niente di risolutivo come terza coltura. Noi siamo una regione sostanzialmente maivicola e coltivatrice di soia in maniera importante. Credo che su questi pilastri per qualche anno continuerà ancora la nostra campagna e la nostra forte presenza sul mercato. Spero che ci possano essere delle situazioni alternative, delle colture alternative che attualmente non riesco bene a intravedere, ma che comunque non riusciranno mai a scalzare, diciamo, i due pilastri fondamentali, come dicevo prima, della nostra superficie regionale a seminativi. Foraggere sempre al palo. Sì, la superficie delle foraggere è sostanzialmente stabile ormai da un numero di anni abbastanza importante, non vedo aumenti delle superfici importanti, anzi forse qualche leggero calo, però credo che nella grande media possiamo considerare una sostanziale tenuta delle superfici. Siete perennemente in lotta contro le malerbe nell'orto? C'è un ulteriore modo per ingannarle e liberarvene, come ci spiega Cristina Micheloni. La primavera fa le bizze, ma le semine sono partite ed anche i trapianti delle orticole sono ai blocchi di partenza. Però, se avete ancora un 15 giorni di tempo, iniziate a pensare a quanto fastidio vi daranno le malerbe tra un po' e agite di strategia, fate la falsa semina. In pratica, preparate tutto come se doveste seminare o trapiantare domattina, ma fermatevi giusto prima dell'ultimo atto. A quel punto, tutti i semi di erba infestante in condizioni di germinare ne approfitteranno. Le condizioni per germinare implicano essere alla profondità giusta, avere acqua e ossigeno a sufficienza e luce quel che basta. In pratica, i semi a pochi centimetri dalla superficie germinano e producono malerbe, gli altri stanno lì e aspettano tempi migliori. Aspettano anche anni, quindi non sperate che l'anno prossimo se ne siano dimenticati. Quando dopo 5-10 giorni, a seconda della temperatura e dell'umidità, vedrete i primi riflessi verdi sulla superficie del terreno, ovvero le prime plantule che emergono, passate con un erpice o un altro strumento, ma molto superficialmente, in modo da non portare in superficie altri semi. Insomma, non vangate o non fate altre operazioni che portino in superficie il terreno sottostante. Se ne avete il tempo, lasciate passare altri 5-10 giorni e rifate il tutto. Ok, ora il terreno è pronto per essere seminato o per effettuare i primi trapianti e le malerbe dovrebbero darvi molto meno fastidio. Attenzione però, anche nelle operazioni di semina o trapianto, a non smuovere troppo il terreno per non rendere vani gli sforzi fatti. Un'ottima alternativa è utilizzare il pirodiserbo all'emergenza delle plantule di malerbe, ovviamente se ne avete l'attrezzatura. Questa pratica del pirodiserbo giova a tutte le colture, ma particolarmente utile su quelle meno abili a competere con le erbe spontanee, come la carota, la cipolla, l'aglio o le colture da taglio. Anche sulle colture seminative è un buon aiuto, si pensi a mais, soia e girasole, e a quanto meglio possono crescere con un 30% in meno di infestanti. Spesso vale la pena di ritardare la semina, ma partire con un bel vantaggio sulle erbe spontanee. Dopo i fasti medievali francesi legati ai monasteri, per la storia del vino, oggi il professor Roberto Zironi, che insegna enologia all'Università di Udine, passa ad analizzare il quadro italiano tra XIII e XIV secolo. In Italia, a partire dall'anno 1000, con la progressiva dissoluzione del regime feudale, chiaramente vengono a cambiare le condizioni rispetto a quanto abbiamo visto finora nella Francia o diciamo nell'Europa continentale. Abbiamo chiaramente delle condizioni in cui anche la borghesia può acquisire dei terreni, può dedicarsi alla viticoltura e il vino diventa un requisito fondamentale negli scambi commerciali. Ad esempio, tutta la pianura padana scambia con Venezia il sale, in gran parte pagandolo col vino, anche perché Venezia a quel periodo non aveva terre, quindi non seminava e conseguentemente nemmeno vendemmiava. Le città, diciamo, diventano nel XII secolo una condizione importante di sviluppo sociale, acquisiscono un'autonomia politica e all'interno delle città si fanno praticamente strada delle classi mercantili ed artigianali che acquisiscono un prestigio da un punto di vista economico e quindi vogliono ostentare questa loro elevazione sociale anche con un consumo, diciamo, di vini. Mentre invece nel contado, cioè gli agricoltori, non hanno la possibilità di bere il vino, non tanto perché non lo producono, ma chiaramente tengono per loro in modo prevalente i cereali, mentre il vino è il mezzo per poter ottenere dei denari e comprare tutto quanto serve per la vita della struttura, diciamo, contadina. Con l'acquisizione di nuovi capitali, i borghesi all'interno delle città fanno degli investimenti e quindi incentivano praticamente lo sviluppo della viticoltura, che quindi prende una superficie veramente molto molto ampia, ma privilegiando chiaramente la quantità rispetto alla qualità. Quindi diciamo che nel 1300 possiamo considerare il consumo del vino come un'abitudine quotidiana. Abbiamo poi il fatto che il vino, in assenza di altre bevande che saranno soltanto presenti nei secoli successivi, è una delle pochissime bevande medievali. Anzi, sicuramente una delle poche bevande sicure, pensando che l'acqua spesso viene presa da pozzi fangosi e inquinati, e il vino risultava essere una delle poche forme di evasione. Infine, un'altra cosa importante che sviluppa in Italia in questo periodo sono gli aspetti non solo gastronomici ma anche culturali dei clerici vagantes, cioè gli studenti di tutta Europa che accorrono dapprima a Bologna e poi in molte altre città per studiare il diritto, la medicina e le scienze. E quando ci sono studenti, chiaramente c'è gioia. Oggi Antonino Danelluto per la rubrica delle piante ci parla dell'equiseto dei campi, pianta comunissima quanto antichissima. Una pianta che ancora oggi porta con sé i principali caratteri degli antichissimi equiseti arborei è l'equiseto dei campi o coda di cavallo, nome scientifico Equiseto marvense, in friulano code musine. Nel periodo del Carbonifero, circa 300-350 milioni di anni fa, gli equiseti erano enormi, alti anche 20-30 metri, ed assieme ad altrettanto grandi felci arboree diedero un notevole contributo alla formazione del carbone fossile. Attualmente sono rappresentati da specie erbacee di piccole dimensioni che raramente superano il metro d'altezza. Sono piante non evolute, senza fiori e quindi non si riproducono per semi, ma per mezzo di minuscole spore che danno origine ad individui geneticamente uguali al genitore. L'equiseto dei campi cresce un po' dovunque, prediligendo terreni incolti umidi. È pianta perenne con rizoma lungamente strisciante, dal quale in primavera spunta un fusto fertile di 10-30 cm circa, privo di clorofilla, cavo, non ramificato e con all'apice una spiga ricca di spore. Appena avvenuta la dispersione di queste ultime e avendo esaurito il suo compito, il fusto fertile si secca. Ecco allora che dal rizoma si alza un fusto sterile, verde per la presenza di clorofilla, con le foglioline trasformate in brevissime squame e con rametti in verticilli. Questo svolge la fotosintesi e produce materiale di riserva che immagazzina nel rizoma per la primavera successiva, così da permettere la ripresa del ciclo vegetativo. I fusti fertili, ripuliti dalle guaine e privati della spiga apicale, vengono usati in cucina lessati e conditi in insalata oppure consumati come gli asparagi, dei quali però non possiedono il sapore. Invece i fusti sterili, raccolti da maggio ad agosto, vengono impiegati in fitoterapia fin dai tempi antichi. Sono buoni diuretici e ottimi remineralizzanti. Per l'elevato contenuto di silicio, assieme a calcio, magnesio e potassio, risultano utili nell'osteoporosi e nelle fratture ossee. Un batuffolo di cotone intriso di succo fresco arresta subito l'emorragia nasale. Una curiosità, grazie all'alta percentuale di silicio, la pianta secca veniva utilizzata anche in tempi recenti come abrasivo per la lucidatura di oggetti di legno, di rame e di metalli in genere, oppure per la pulizia interna delle bottiglie. Forse non tutti sanno che a Codroipo ci sono i più antichi budellai d'Italia, budellai quelli che preparano, vendono e confezionano i budelli per il salame. Ce ne parla Adriano Del Fabbro che ci cura la rubrica dell'Universo Suino. Più di 140 anni fa, nel 1867, nasceva a Buia una delle aziende più antiche del Friuli, la Savonitti. Buia allora era un paese a economia prevalente agricola, come si può immaginare, e la popolazione maschile cercava lavoro all'estero per sopravvivere. Domenico Savonitti, che al tempo si dedicava al piccolo commercio, individuò nelle budella un articolo che ben poteva adattarsi alla necessità di conservazione delle carni di maiale. Quando l'impero austro-ungarico era ancora fiorente e il Friuli era appena stato annesso all'Italia, Domenico non disdegnava di oltrepassare le frontiere con carri e vettovaglie per tornare poi carico di fusti di budella che, sempre più massicciamente, venivano utilizzate in Friuli nel vicino Veneto. Con il trasferimento dell'attività da Buia a Codroipo, e per merito dei nipoti di Domenico e figli di Mattia, Giacomo e Matteo, l'industria delle budella Savonitti rinforzò le proprie relazioni con i più grossi macelli di bovini nazionali ed esteri, affermandosi come una delle più combattive ed esperte aziende del settore, rivolta soprattutto al più grosso mercato utilizzatore, quello agricolo. Con la crisi dell'agricoltura e l'affermarsi dell'industrializzazione, però, l'utilizzo delle budella naturali subì un certo declino, poiché la produzione del salame standardizzato favoriva l'impiego dell'involucro artificiale, adatto soprattutto a contenere i costi e a snellire, con l'aiuto di altre componenti chimiche, i tempi di maturazione. Accanto alla bottega di alimentari che riforniva il privato, l'attenzione e la cura della Savonitti Mattia si sono rivolte ai trasformatori, salumifici, macellai, agriturismi, desiderosi di mantenere e offrire un prodotto di alta qualità, favorendo le lavorazioni più tradizionali, capaci di garantire l'impiego di materiali naturali per la conservazione e valorizzare le caratteristiche organolettiche del prodotto, completamente edibili e biodegradabili. In questo sforzo di adeguamento l'azienda ha aumentato il proprio livello di sicurezza, ricevendo riconoscimenti di capacità produttiva a livello europeo, come pure la certificazione ISO 9001-2000. Negli ultimi decenni, oltre a essersi sempre impegnata nel sostegno al Consorzio Nazionale Tutela del Budello Naturale, con sede a Modena, l'azienda si è aperta alla ricerca e all'offerta di altri prodotti e articoli che soddisfino le richieste di tanti clienti. Così i magazzini di goricizia di Codroipo sono stati ampliati per contenere accanto alle budella un vasto assortimento di spezie, aromi naturali, coadiuvanti, spaghi, reti, attrezzature e oggettistica da banco o da lavoro, materiali per l'igiene e l'antinfortunistica. All'interno dello storico stabilimento si è trovato il modo di sviluppare anche aree espositive adatte a stimolare l'inventiva degli operatori della salumeria e delle carni in generale. Era immancabile nella merenda pasquale fino a qualche decennio fa. La gelatina torna in auge in questa ricetta di Roberto Zotar, che celebra una preparazione caratteristica delle nostre terre mitteleuropee. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vi saluto con il tradizionale buona Pasqua e buone pinze a tutti. Dato il difficile periodo, oggi purtroppo non riusciremo ad andare né a messa, ben agghindati con il vestito nuovo, né alla tradizionale processione del Resurrexit, che si svolgeva sempre in moltissimi paesi della nostra regione. Spero però che tutti si possa avere la possibilità di perpetuare la tradizionale merenda pasquale con salame, uova sode colorate, pistums o fulis, prosciutto cotto nel pane, spalla cotta, pinza o fujatsis di Pasche, pan sporc, gubana o presnitz. La tradizione vuole che in questo brunch ante litteram o nel pranzo pasquale che segue ci sia anche un gustoso piatto di gelatina di maiale decorato con una foglia di alloro. Questa preparazione, forse oggi fuori moda e poco nota ai giovani, non trova riscontro in altre regioni d'Italia ed è caratteristica del Carso, del Coglio, di Gorizia, del Friuli Asburgico, dove nota anche come Silidine, di Trieste e dell'Istria Interna, ma anche della Slovenia, dove si chiama Zouza o Siuzza, e di parte dell'Austria che la chiamano Sulze o Eisbahn Sulze. Le vecchie ricette carsoline prevedono l'impiego soprattutto di piedini e orecchie di maiale, ginocchia di vitello e stinchi, mentre in tempi recenti, per rendere il piatto più ricco e forse anche meno greve, si sono aggiunti altri tagli di maiale, di vitello, pezzi di prosciutto e fettine di lingua. Se avete la pazienza di prepararla, fate bollire in abbondante acqua due carote, due cipolle, due gambe di sedano, un mazzetto di erbe aromatiche con qualche foglia di alloro, sale e pepe in grani. La preparazione è per una ventina di persone e prevede poi l'aggiunta di due piedini di maiale, due orecchie di maiale, uno stinco di manzo, quattro ossi buchi di vitello, una lingua di vitello, mezzo chilo di prosciutto cotto in un pezzo intero. La cottura sarà lenta e a fuoco basso per parecchie ore, schiumando e sgrassando di frequente. Maria Stelvio proponeva di aggiungere a metà cottura alcuni cucchiai di aceto. A cottura ultimata, le carni, disossate e fatte a pezzetti, vengono spartite e disposte su piatti individuali, guarnite da una foglia di alloro, grani di pepe e a piacere fettine di uova. Filtrate il brodo, riportatelo al bollore e versateci, sbattendo con una frusta, un paio di albumi montati a neve, per purificarlo e filtrate nuovamente attraverso una tela fine. Versate quindi del brodo nei piatti sopra i pezzetti di carne e lasciate riposare al fresco, non in frigorifero, per far rapprendere. Macinate sopra un po' di pepe fresco, stappate una bottiglia di buon terrano e buon appetito e ancora buona Pasqua a tutti. E ora con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Andamento incerto, con un mercato fiacco venerdì scorso alle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Udine e Pordenone, avvenuti attraverso videoconferenze causa coronavirus, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 17 e 17,20 euro al quintale IVA esclusa, la soia tra 37 e 37,30, l'orzo con peso specifico 60-63 tra 16,20 e 16,70, il frumento tra 20,10 e 20,40. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 50 centesimi e la soia di 4,40 euro al quintale. Mercato in difficoltà nel comparto dei bovini da macello, con le vacche fine carriera di prima qualità pagate a peso morto tra 2,20 e 2,60 euro il chilo IVA esclusa e quelli di seconda tra 1,40 e 2,20. Contrattazioni pesanti anche nel settore dei vitelli da ristallo, con i Blubelga maschi quotati tra 5,60 e 6 euro il chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 3,80 e 4,30, i frisoni tra 1,40 e 1,70 e i bruni tra 1,50 e 1,70. Toni con tendenze pure in calo nel comparto suinicolo, con il valore degli attondoli di 30 kg franco partenza fissato a 3,45 euro il chilo IVA esclusa e i grassi da macello a 1,20. Infine andamento con scambi a rallentatore nel mercato degli aviconicoli, rilevato dal CUM di Verona, dove i polli a terra vengono pagati tra 1,21 e 1,23 euro al chilo, i tacchini maschi tra 1,41 e 1,43, le anatre tra 2,31 e 2,33, le faraone tra 2,21 e 2,23, i conigli oltre 2 kg e mezzo tra 1,78 e 1,80, mentre il prezzo delle uova oltre i 73 grammi è di 18 centesimi il pezzo. Con Arturo Puccillo, previsore dell'ARPA Osmer, un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Ci siamo lasciati a fine marzo con un improvviso recupero dell'inverno, temperature rigide, la neve anche a bassa quota, le gelate tardive che si sono prolungate nei primissimi giorni di aprile, con ore di apprensione e termometri scesi localmente anche a meno 4 in pianura, meno 12 a Fusine. D'altra parte il tempo si è decisamente messo al bello, con cielo sereno, grazie a un'alta pressione che però ha favorito il irraggiamento notturno e ancora temperature minime rigide sulle zone interne. Le massime si sono portate invece gradualmente verso l'alto, toccando il 3 aprile i 15 gradi. Nei giorni successivi l'alta pressione rimonta a nord delle Alpi, determinando l'afflusso di correnti orientali sempre decisamente secche e più miti. Nel giro di pochi giorni le temperature minime sulla costa e sulla fascia orientale della pianura risalgono fino a 13-15 gradi e le massime superano diffusamente i 20. Dopo l'8 aprile il flusso orientale cessa e si impongono le brezze, per cui il fine settimana pasquale fa registrare ancora minime fresche nei fondovalli alpini e in pianura, mentre le massime si differenziano molto tra la costa, che risentendo di un mare a 13 gradi fermi i termometri a 20, e la pianura, che venerdì tocca i 28. Su tutto spicca l'assenza di precipitazioni significative del primo di marzo, salvo qualche eccezione a fine mese, confermata anche in aprile. Ricordiamo come riferimento aprile 2007, che fu molto caldo e secco fino alla fine. Venendo alle previsioni, una temporanea attenuazione dell'alta pressione europea, a opera di un veloce fronte freddo settentrionale, avrà effetti limitati sulla nostra regione. Dopo un lunedì variabile con temperature specie massime in calo, le prime ore di martedì potrebbero regalare qualche rovescio e forse qualche fiocco di neve a 1000 metri sui monti, seguiti da un rapido miglioramento già in mattinata. Bora sostenuta sulla costa e vento da nord sui monti e in pianura. Le temperature saranno in ulteriore calo, specie tra martedì sera e mercoledì di prima mattina, quando le minime saranno diffusamente sotto zero sulla zona montana e poco sopra lo zero anche in pianura. Da giovedì si affermerà nuovamente un'alta pressione, con afflusso più caldo in quota e le temperature andranno gradualmente aumentando, sempre in presenza di cielo sereno o poco nuvoloso e con venti in regime di brezza. Verso il prossimo fine settimana ci attendono ancora massime oltre 26 gradi in pianura. Per aggiornamenti, come sempre, vi invitiamo a seguire le previsioni di Osmer ARPA sulla RAI regionale, su internet, telefonia mobile e sui vari social media. Alla prossima! Termina qui la puntata. Oggi tornano i proverbi friulani dedicati al tempo e al calendario. Pasche vigni, cenà e la dormì. Pasche passade, cenà e late strade. Ovvero prima di Pasqua cenare e andare subito a letto. A Pasqua passata cenare e invece andare in strada. Le giornate sono più lunghe e calde e ci si ritrovava fuori casa. Coordinamento tecnico di Daniela Posto, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima, augurandovi ancora una serena Pasqua. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.